canale 10, ora canale 10. Ora canale 10. Avanti, chi chiama? Ora canale 10, c'è qualcuno? Attenzione, canale 10, canale 10. Ora canale 10. E chi sei? Buongiorno. Sono una M adesso. Ehi. Ehi, non te lo... Ma che sei, Franco? Luca. Ciao Luca, mi hai sentito. Fammi un controllo. Aspetta, il buon occhiale. Ehi. Vai Antonio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, come sta arrivando? Alla veloce. 9, 10, abbondanti, radio 5. Guarda adesso, aspetta, eh? Quanto è sceso adesso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Radio 5. Passi da 8 a 9, 5. Sì, 8, 9, 5. Già va bene, allora, già sta arrivando bene. Ok. Aspetta un po' con l'altro palatino, con un palatino bello del vecchio. Attacco il cover 4000 e attacco l'altro, aspetta 2 secondi. Guarda con questo, Luca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com'è? 9, 5. Tu guarda la tua ancora il 4000, no? Ah, va bene. Un po' più di radio ci sarebbe voluta. Radio bassa, prepara con il microfono normale. Questo è il microfono normale. Ah, vabbè, se è il microfono normale, lascia così che è la sua allora, ok. Aspetta un sacco di gente. Guarda, adesso ha detto qualcosa? La radio liberata? No, 7 radio 4. 7 radio 4. Adesso... Così stiamo male. Io ne ho 10. Ok. Ora. Bene, 9 e 5 di nuovo. 9 e 5 radio 5. Va. Ma c'è la raccontare in cosa, di che vuoi dire? Sono passato con l'altro. Sì, prima era l'altro. Chiave. Questo è il microfono originale. Originale di questo apparecchio che è in vendita per euro 25 KK. CRT Force One. Questo è il baracchino, con il microfono, ma va male pure così. Cazzo, 25 euro è come se me lo fosse regalato, ma 2,50 magari. Perché abbassata. Qua lo vogliono così, capito? Se no ti dicono che con 30 euro lo comprano nuovo, il Force One, capito Antonio? E allora io dico 25 e magari vengono a prenderselo con la scatola, la staffa, viti, pellicole ancora sui tappi. Porta chiavetta USB per inserimento di canzoni o sfondi del display. Un bel display. Sfondi infiniti dall'analogico al digitale, molto molto belli. Cava, vai Antonio. Adesso sabato vengo io con lo scooter, vado da casa con lo scooter e vado da qui a mangiare, quindi faccio un po' di carico di... abbiamo avuto i soldi, avete fatto il carico di palazzini. Bene. Guarda, aspetta che abbasso un po' di guarda il segnale così Antonio. 8 watt se potenza minima dell'apparecchio. Ah, non lo vediamo perché lo switch l'ha cambiato questo apparecchio qua. Sto usando la tagliette, le mezze dove c'è. Va bene, tutto Roggero qua. Ciao, stazione Alfa Delta comunque. Alfa Delta, buonasera, mi ha sentito. Con quel secco che c'hai, guarda, che rispetto in considerazione. Comunque già ti ho capito subito. Si fa per giocare, vediamo un po'. Così va bene? Minimo proprio Marseille. Perfetto, così sei perfetto. Non c'è da sbagliare. Io, siccome stamattina è stato fatto, e Antonello mi ha detto, poi non ti sento io, ascolto quasi. Stavo facendo delle prove, e ho di vigliare, vedere un pochettino. Stamattina sono tutto ok, tutto a posto, però problema anche di microfono che è troppo basso. Sì, perché il segnale è 9.5, anche abbondante, però sì, è la radio, un microfono preamplificato. Guarda, questo è il microfono normale di questa radio, però è la radio che va, capito? È la radio. Cala gava. Torno con l'altra, un attimo. Ok, d'accordo, attendiamo. Eccoci qua. E che apparecchio stai usando adesso? Un 44 questo. Kenwood, casomai. Sì. Ah. Diciamo, si vede dal segnale, dalla modulazione. No, io avevo l'857 di Aesi, poi l'ho veduto. Una persona, ma l'ho veduto anche in un'altra parete. Comunque vanno bene, là. Io lo uso e ho preso questo apparecchio qua, tanto, per non essere in paranoia. Capito? Ok. Adesso ti passo ancora. Sì, dovresti. Sì, mi sembra che ce l'aveva Antonello, o l'817, non mi ricordo quale aveva. Ma quelli non spingono in AM, no. Guarda, io ho provato quello che spingeva bene in AM, era il 706. Il 706 perché il compressore agiva anche in AM, allora spingeva. Ma 817, 857, 897, mi dispiace, ma assolutamente no. Sì, se parli proprio vicino, attaccato al microfono, allora sì, c'è un po' più di radio comunque. No, io l'857, anche Antonello l'avevo, però io l'avevo ordinato nuovo, non l'avevo preso usato, l'ho preso nuovo e poi l'ho venduto un amico, adesso non c'è più, è morto, e lui l'aveva poi venduto perché non so, era appassionato della Kenwood, quindi era molto appassionato. Però diciamo sui 27 non si poteva utilizzare perché bisognava fare una modifica in finale, non mi ricordo bene adesso. L'avevo preso da uno italiano, mi sembra, che era un prezzo abbastanza buono, vabbè, scusa, che era 500 euro, ma io l'ho preso nuovo, l'ho pagato, mi sembra che mi è venuto 700 euro, mi è venuto a me. Con il CD e tutto quanto mi è scritto in italiano, mi avevo mandato pure la cartella in italiano, traduzione e tutto quanto, capito? Sì, no, anche l'897 era un bel apparecchio, comunque, sì. E vabbè, noi Kenwood sono sempre andati bene in AM, sempre, a partire dal 140, 430, 440, e giù di lì. E poi c'era anche quello... che c'è l'architetto della Sony, che lui è il rilevatore, c'ha il 257, poi per i due litri c'è anche un altro Iaesu, ne ha due apparati in cui c'è la pressione fissa a casa. Comunque buttiamo sempre bene gli Iaesu, non posso dire niente in merito, ho visto tanti apparati, gli Iaesu, forse questione di culo, no? Quando riesco a questi apparati. Beh, sì, infatti, guarda, io opto per la Iaesu, e secondo me la Iaesu è superiore. Guarda, ho avuto il 7003, ho avuto il 991, ho avuto il Iaesu FT 1200, ho il 756 Pro 2, un po' mi piace provarli, ecco. Anche 7003 è una bellissima radio, lo stesso, piccolina, ma come nel 991, lo stesso piccolino, ma vanno benissimo, vanno benissimo. Sì, sì, no, io ne ho visto tantissime apparecchiature, guarda. Solo con quelle apparecchiature devi fare l'esame, infatti quello che mi fa incantare a me, e dico questo sempre, ma perché cos'è? Devo portare un mezzo per stavare nelle ricaviche. Cioè, una cosa assurda, guarda, speriamo che un giorno liberano questa frequenza, almeno uno ci avrà il nominativo, tutto quanto, sai le frequenze dove devi entrare e dove non devi entrare, e basta, finisce, via, perché... Un secondo e prendo il telefono. Ok. Sì, cavolo di call center. Cos'è? Non ho capito, scusa. Questi cavolo di call center. Ah, quelli non sanno cosa fare, rompere le palle. Io quando vedo telefonata che non ha, figlio chiedo la chiesa. No, non ne voglio rompere le scatole, guarda, anche la compagnia che abbiamo, vogliamo tutti gli altri. Oh, via, per carità. L'indicatore, tranquillo, proprio si sta molto bene, veramente, c'ho pure... No, se si sente bene, 7-5 il ventolone acceso, E tu veramente... È una meraviglia questa radio. Ora Nicola, di nuovo... Prima UIC Fox, TU7. Antone, è caduto, sì. Dove sei? 40 metri. Avanti, giro. Ma il 144 sei oppure sei nelle decadenze? 40 metri. Ah, ok, capito, sì. Okay. Ma io qualche volta ho uscito con un attimo di quell'amico che stavo dicendo, però lui era pure, uscivo con un attimo sì, ma infatti una volta con un attimo americano, quindi... A volte sparisci di radio proprio, devi alzare la voce. Adesso come? Eppure burro, non lo so io, se mi la devo avvicinare proprio alla bocca. Così devi stare, se poi ti giri a parlare magari o ascoltare qualcuno che c'è lì a fianco, ti perdo. Vuol dire problema di microfono questo qua. Devi proprio starci attaccato. Comunque c'è bene, no, stai uscendo bene. Basta mettere un preamplificato. Sì, adesso vedo un pochettino. Per il momento più che altro bisognava fare il collato di questa antenna, vedere un pochettino come usciva, come non usciva. Però stazionare a posto, così che il problema è solamente il problema del microfono del carico. In che zona sì? Sì, sono a 5 km da Sorso. Allora, che antenna è? 5 ottavi, mezz'onda. 5 ottavi, la sigla. No, già sta arrivando bene. Io sto usando la Grazioli. La Grazioli, come dicono in continente. No, questa l'ho presa usata. Usata. Era la montata del proprietario. 3 giorni poi gliela ha svoltata un amico, gliela ha svoltata, l'avevo messo su subito, l'ho vista, e siccome era più alta come prezzo, qui l'ho abbassata, l'ho contattato e ci siamo messi d'accordo, me l'ha fatto vedere molto bene, però molto solite che trasporta, che non so, un pochettino, perché non aveva roba lui per poterla inviare, una scatola, qualcosa, ha dovuto comprare un tubo di plastica, metterla dentro, poi diciamo tamponare bene. Infatti questo tubo di plastica è arrivato un po' rotto, meno male che non è arrivata rotta l'antenna. Sì, bastava metterla nella pluriball. Intanto se devono fare danno lo fanno, purtroppo secondo il Corriere. No, già stai arrivando bene, a Puglia. Un ottimo segnale. Sì, ma con la scarpetta sotto però, perché senza scarpetta penso che arrivi un po' pochettino faccio, perché la mattina non mi ricordo che ti ho parlato, ma un segnale un po' faccio, ma l'altro. Eri 7, staccato, sì, utilizza quella, mettici una ventola perché con questo caldo. Sì, infatti. È bucato la farattissimile, è bucato sopra, voglia che entra aria. Già faccia bene l'aria, c'è solo mettere, come si chiama, il rosmetro sopra, però già è bucato, è fatta benissimo l'aria. Ma deve proprio buttare fuori quella calda, forzata, capito? Se la scaldano parecchio, finale pure con questo caldo. Aspetta che ti metto l'altro con la scarpetta. Allora. Hola, così sono 8 di portante. Aspetta. E così siamo 115 watt, ok, con la scarpetta sì, con la scarpetta sì, Antonio. Allora, così 170. Io ne sto usando 100, tundo su tundo. Beh, se passi da 7 a 95. Sì, ma è ultimo come segnale, a voglia. Questo è un Leopard, si chiama L300. Leopard L300. Ah, conta bene. A voglia. Vecchiotto, ma già va bene. Arrivati ti sono, sì, arrivati sono arrivati, ma dove fanno i virai? Che ti riguarda? Abbadeguno, ce l'hai il telefono, Abbadeguno, guarda che rosmetrino se ti piace. Cioè, abbiamo anche il Daiwa CN901 HP3, sempre in vendita, questo digitale sempre in vendita. E poi abbiamo l'SX1000, sempre in vendita a 15 euro. Ma tu sei quello che sta vendendo quello Yaesu 800 euro, mi sembra che era, su Mati e Flash. Chissà che annuncio è. Poi li avevo messi tutti lì, sia 7003, 991, il appunto 756, e non so quale sta dicendo. Io perché ho visto su Marketplace, dai. Ho visto un Yaesu, mi sembra, 800 euro, mi sembra. Bello come apparecchio, bello apparecchio. Sicuramente ho visto il 710, perché ho anche quello. Il 710 ASS, quello con la sua colonnina, nuovissimo anche quello. E i prezzi sono quelli, non è che li puoi vendere di più. No, c'è un sacco di manopole, c'ha quello di quelle che stai dicendo io, però non so se non mi ricordo del modello che era. Non te lo so dire. Sì, allora. O è un annuncio vecchio, Il 1002 sarà. Il 1002. 1002 mi sembra, così è, 800 euro. 800 euro mi sembra che lo stavi dando, così era. Probabilmente era quello. Che è il più grande, insomma, a parte il 756, ma è grande il 1002, ma ragione in radio. E anche quello non spetta, diciamo, è una bella parata. Sì. Ripeto, a me piace provarli e dopo vedo se c'è qualcosa di interessante che non ho avuto e faccio, chiamo l'amico rivenditore, faccio le permute, capito? Io ho iniziato un po' prestino nel progetto, cui ho avuto il 75. Già ne ho passato per il 72. Io che sono un ingegnere della BDE, non so se l'hai conosciuta, c'è la BDE di Biella, che era 2 kg nel CCD, un kg in aereo. Poi una direttiva, un rotore, come stato una superiore. Insomma, mi sono abbastanza divertito. Ottima, sì. Ma di nuovo non c'è niente in giro. Non c'è nulla, un sacco di radio di questo appunto di ultima generazione in vendita ci sono, dai 7003-991, di X10, eccetera. Ma non c'è niente di novità, il mercato si è fermato. E io quell'apparecchio lì l'avevo venduto, poi l'ha fuso. Come lui c'ha sempre con la forza di sta, no? Sempre a manetta. Perché giustamente l'apparecchio, quando io aumentavo di potenza, c'era la ventola che aumentava di più, quindi no? Ovviamente qui sono molto attento, pure se mi viene fatto che si risalda un po', passa la, diciamo, la potenza, perché c'è due potenze, la 350, e poi metti la massima potenza che posso utilizzare in AM, che ti dava un filo, e poi l'altra sarà la 20 kg, ma un giorno, guarda, mi sono talmente divertito, guarda, mai visto una cosa del genere. Un po' di brutto, così è. Di brutto così. Una hai detto solo il tipo, ma al telefono stai parlando, perché io non sono al telefono, sono col baracchino. No. Occhio che comunque a Antonello Magone, sta attento, non dargli mai le spalle. No, già è tranquillo, con me già è tranquillo lui. Non è che lo conosco adesso, Antonello, conosco da tanto Antonello, figurati un po'. Che a lui gli piacciono i microfoni, capito? Stai attento. Da tavolo gli interessa il microfono. Il microfono da palmo gli piace a lui, hai capito? Ma il video guardate gli altri. Sì, li ha visti, ma detto che sono belli, sono tranquilli. Se non avete pagato la tassa della modesta, me l'avete comprato. Guardati questo video, Antonio, ti piace? Sì. Molto, molto bello. Te ne ho mandato un altro. E di questi ne ho due, ne ho. E quel rosmetrino ti piace? Sì, ok. Aspetta, vai. Guarda che sei sceso, mi segnale Antonio. Ho staccato perché sta entrando dentro il cuore della vicina di casa. Se no, amore di Darugati che mi prende. Ma io sono andato a fare. Ma Antonio, lì o quando stacchi metti un microfono preamplificato o non so cosa dirti, guarda, c'è la voce, buona di un megafono. Aspetta che faccio di dove metti un MB, un turner. E dopo se sei per la ciclovia con il microfono amplificato. Se vuoi ti do la ricetta mia, Antonè, se vuoi proprio, eh. 1, 2, 3, 4, ma scusa adesso. A me la radio c'è. Adesso si sa dove ce ne andate. E con il 4000. Vedi, così puoi tenere staccato, ma almeno arrivi in radio. Già lo stai facendo. Ok. Ma gliel'hai messa alta l'antenna? Sto parlando al baraccino adesso, mi senti adesso? Perché c'è una signora che dice che stava ascoltando in cuffie e che sentiva il bip, sentiva. Perché l'apparecchio cosa c'è il bip che stavamo parlando prima? E io. Non lo sapevo io che c'era la cosa là. Ecco, ora vi sento. Ancora ci sente. Oh, è strano questa cosa. Dice che ci sente nelle cuffie, di nuovo. Grazie, poi non lo so io. È possibile. Cioè, figurati quando attacchi. Non ce l'ha sant'enna o fumagalli. Guarda la questione, che cioè sta ascoltando il telefono con le cuffie. Cioè, si sente nelle cuffie del telefono. Non lo so io, Sì. Purtroppo capita. Probabilmente con l'altro microfono non entravi. Anche con l'altro. Bel casotto. Ma l'antenna bassa c'hai? Adesso calza calza. Si vede che lì entri vicini di casa siete. Sì, ma tipo non fa niente. È strano che sta nel cuffie del telefono. Sì, no. Sempre onde a radio. E tu di lì togli se le cuffie. Se con le cuffie di tutto evidentemente. Allora. Probabilmente. Non ho capito se siete a Sennuri o dove, o giù di lì. Più su della Finanza. Questa via scossa. Ah. E come mai sai? Vedi risolvere questo problema, perché il segnale, cioè come radio arrivi, però adesso questo disturbo non va bene, poi ti rompono le scatole. Aspetta la femmina. Se manda il marito, tu mandalo ad Antonello, dici guarda il tecnico è questo. E così li fanno il lavoretto, gli fanno l'aggancio microfonico, Antonello. Aspetta un secondo, Luca. Fai. Così meglio, gli spaghetti a cosa? Aspetta. E stamattina con cosa stavate modulando? Stamattina, va, adesso stiamo modulando. Stamattina l'ha provato lui 5 minuti e poi è riuscito a prendere a me. Capito? Per provare l'impianto. Come fa con la strumentazione. Ma l'antenna gli hai piazzata tu o era già piazzata? L'ha montata lui l'antenna sotto al tetto. E io gappa. Che ti devo dire, ancora disturbando sta? Non lo so. Evidentemente magari sta usando YouTube con le cuffiette, sta usando le cuffiette e col telefonino, quindi in pratica o sta usando YouTube per ascoltare musica. Quindi è talento. Sì, bisogna però figurati se attacchi li direi ancora di più. No, è uguale, non cambia nulla, anche se attacco. Sono rogne. Ecco, per quel caso Antonè, non mi hai fatto più sapere nulla. Vabbè, già è qua, già ne ho in abbondanza. Aspetta che te lo passo. Lo devo prendere io, sono io quello che lo devo prendere il cavo, siccome ho l'RG8 e devo prendere quel cavo sottile perché diciamo devo fare la calata con quello, perché l'RG8 lo voglio togliere che Sta dicendo la signora, sta mandando un messaggio appena un po'. Comunque ne dovrei prendere una ventina di metri, dovrei prendere. Capito? E perché devo bucare anche il muro, devo bucare per entrare il cavo dentro casa, perché adesso le reggioto, sono un bel po' di metri e non sto facendo entrare dalla finestra con la zanzariera, però fuori diciamo devo arrotolare e per farcelo fuori. Così che più avanti se puoi aspettare te lo prendo il cavo, però per il momento sto per spendere questo mese. Ehi, ma c'è problema. Ma l'hai reggiotto mini o l'hai reggiotto quello grosso? Io c'ho forse una decina di metri di quello grosso che avevo messo negli anni 90. Adesso c'ho tutto H155. No, questo è l'RG8 proprio, l'RG88 proprio, diciamo, era una bella montata, un po' di pressione, non mi ricordo adesso. Devo mettere quello sottile, così almeno non posso entrare, poi devo fare il mobiletto per mettere l'alimentatore e apparecchio, capito? A te che ti passi, che li passo sempre tutto, non lo so io che cosa come fare il filetto. Lineare non c'è nulla attaccato, c'è solamente la parete, no, non lo so io come faccio a poter passare il filetto. Eppure prova a cambiare il cavo, vedrai che quello è il problema. La scarmatura del cavo sicuramente, prova a cambiare e vedrai che risolvi. L'RG8 quello grosso, ce l'ho anch'io, una decina di metri. Qual è l'apparecchio? Attenzione, ti chiami carabinieri, hai capito? Però beh, mi stai disturbando le cuffie. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3. Mettili l'eco, così ti senti ancora di più. Qual è l'apparecchio? 1, 2, 3, 4. Va bene, va bene. Quello va bene, è a lei che non va bene. Si sente adesso l'eco, sì. No. No? Adesso c'è l'eco, eh? 1, 2, 3. Sì, leggero c'è. Leggero, leggero. Che microfono è, Antonio? È con le 4.000, Ah, la radio, ho capito. Attenzione Antonio Bombolino, se sei in ascolto. Giulio, mezzo dollaro, dove sei? Sparito dalla frequenza. Giulio, dove sei? Ciucacciù. Non l'ho più sentito. Poi si lamenta che non entra nessuno. Che adesso ha colgiato. Adesso col cavo diretto dell'antenna. Vediamo se fa di essere disturbato lo stesso oppure no. Spesso lì da magari è come ha attaccato due spezzo di 1058. Può disturbare lo stesso. Il cavo di discesa sicuramente. Capito, che c'è il 2 su Gau, sei quello grosso, ha più di 30 anni. Sì, a voglia. E l'acqua non è tornata. Cazzarola, ho messo l'autobotte qua sotto, ho scaricato la cisterna stamattina. Ma ti buca la doccia chi sottobotte, stava buddendo in seva. Certo, deve caricare anche carburante, ya lo sai. Anche noi siamo senza acqua, ci aveva la cisterna da 15.000 litri. Devo rifornire senza capo, già costa poco con l'acqua, ho visto il coso, ho visto. No, qua fai con i bidoni, ma che serve? Io c'è il serbatoio, difficilmente che rimango senza. Quando la chiudono così, però, un giorno, due giorni, capito? C'è il serbatoio sul tetto. Allora ti puoi far burro la doccia, ne esci lessato, però. Figurati. Cazzo, questo serbatoio in PVC. A 500 litri, ma oggi aumentava la che a ti sciuglia la che se va. Sta provando a parlare, 1, 2, 3, mi sente dal telefono, qui è Radio Rai. Radio Rama, video, qui è Guglielmo Marconi, mi sente? Una volta che mi avevo la pastella, tu mi sei stato a carburato. E aveva l'acqua sotto, ma che sai, tu disturbi, a me mi hanno detto, mi stai disturbando i macchinari del Conti, occhio, stanno preparando l'esposto. Sì, è sicuro, non è tanto il tuo voglio il Conti, lo sai, chiarari. No, non sono, a me l'altra volta, quando mi ha dato la lastra, il tipo mi ha detto, guardi, accendi tu di campanello, ti vedevi tu chiaro. No, quando, la verità, quando sono andato al Conti c'erano quei vigilanti col PMR. Io che sentivo immediatamente che erano affacciato tutto, erano affacciato i vigilanti della Bigiponte. Lei all'ingresso ci sono quelle due tre ragazze solitamente, perlomeno quando vado io ci sono delle ragazze, perché già come ti vanno da fuori, prego! E facevano tanti primo. Aspetta, quanti il primo faceva? Io aspetta che c'è il secondo, gli sbordevo la canta. Ah, PMR? Sì, PMR, su canale 7. Sì, se ne intendi i boghi, i chividi, ma per carità. Grazie, sto parlando della flebo, se prendi la trasfusione, di tutto si sente lì, per carità. Portami quello, vai dal medico. Quello è la cosa, al già piangiamo mai quello. Dico nome e cognome che ti sta facendo una flebo. Quello sta facendo una cosa addosso, l'altro. Un giorno sono entrato e gli ho chiamati. E per me sta gente. A quella bimbi stessa che Antonio, adesso le manutenzioni dei tranchi le sta facendo per gli apparati radio. Non ho capito ora. Sta facendo la manutenzione Ho detto, le manutenzioni dei tranchi le sta facendo adesso per gli apparati radio. Oh, non lo so, prima le facevo io insieme a Marco Micchi. Ce l'avevamo tutto in mano quando c'era il ponte radio in Galimberto. Adesso non lo so che l'abbiano dato. Ma so che devono staccarlo tutto. Tutti gli impianti radio del giorno devono staccare, vanno tutti tramite segnale satellitare, capito? Ah, in digitale passano anche loro, ho capito. Eh sì. Sapevo infatti che li stavi facendo tu, il problema è che loro poi volevano la fattura, e chi la faceva la fattura? Ma come gliela faceva la fattura? Da Bacubic? Capito? Quando ho fatto il coso, il ripetitore di lì, ogni palo, e in 7 eravamo per sollevarlo, con 5 ripuli, però in un punto allucinato faceva tutto salto, il traduttore, si sentiva, questa risposta arrivava. Poi da quando sono adesso giù a Canina, hanno piazzato direttamente davanti da lì, non escono in nessun posto. Ma cosa che fine ha fatto Fabio, te lo ricordi? Non ricordo il nome attivo. Fabio Mastra? Fabio Mastra si è fidanzato con quello che vende il carro vecchio, capito? Con la moglie di quella palettana. Ho visto su Facebook la foto che c'ha col camper. Però qua non ho più sentito, in radio non si è più sentito. No, in radio neanche io non ho più sentito. C'è la Turbo 2001 e dorme in camper. A casa della madre non ci dorme più lui. Prima dorme a casa della madre e parlava da casa sua. Poi da lì se n'è andato perché si sono bisticciati con la madre, capito? L'ho visto parecchie volte però, di fronte al 188 c'è quel parcheggio, lui dorme, in quel parcheggio dorme insieme al campo lì, evidentemente gli fa la custone, Signor Gaglio, uia. Qui abbiamo tolto il cabello di rosso, tutto del lineare, e non sta più entrando con le cuffiette, in quelle cuffiette adesso. Meglio. Meglio così, il fatto che arrivi a stanza di lui. Vabbè, falli degli spezzoni, se hai il RG8 glieli fai direttamente con quello, no? Vabbè, su quello di RG8 ne c'è, è quello problema. A me vuol dire con lineare, capito? Appunto, per usare il lineare, gli fai tutte le spezzoni con il RG8 e riprovi, vede se entra anche con attaccando il lineare. Vabbè, aspetta un attimo. Sì, avanti. se aspetta lui che ne fa la roba in terra, cazzo. Sono io, sono, aveva la preoccupazione importante. Certo. Ma che sei dannaggio? Ciao a tu, vero, c'è Antonello. Antonello, Pomponia, Unia. E che sei a casa, per buono, è tutto canto, ma l'incontrata pure farà tutto qua. E dopo, anche tu? Le farà due quadro di mezzo, sarà. E come mai? Come mai? Le vibrazioni. Ah, qui, ah, è cantata canzone. Antonio, proprio, mi senti? Sei uscito in radio, Antu. Certo che ti sento. Perché no? Dammelo contro il radio. È una bomba, sì, Olga. Una bombola di gas? Cappa. Ma dimmi tu che cosa. Sì, sì, va bene. Sentite, lo ricostruisco. Hai rotto il vetro, Antu? Un pezzettino se l'è rotto. Le vibrazioni, cosa è passato? Da remoto, da remoto. Ma, vabbè, mi assento, sento. Riprendete voi, dai. Voi, dai. Riprendi a tu. Il pezzo sto per attaccarlo. No, è che c'è l'impianto a bomba. Non sono andato a lavorare oggi perché non dobbiamo più farlo quella cosa da Alghero. Per vari cazzi, non so, per... Allora, ma sono stato a casa, ha acceso l'impianto, ma l'ho messo a bomba, ne è parato tutto. Ma tu non l'hai fatto? Perché hai fatto questa domanda? Perché non sono a casa, non sono a casa, che sono fuori. Ecco perché te lo chiedo, a ver come stava arrivando. Forte, forte proprio. Ehi, cavolo. Sì, 9, sì, 9 qualcosa. Sono vicino a casa di... come si dice? Di Gavino. Gavino, Gavino. Uia, mamma. Ah, sì, sì, sì, sì. Ho capito. Cava, cava. Ok, sì. E piglia quello che è in tanto, dai, subito, che sto facendo una cosettina. No, no, ma essendo lì non mi arrivi molto forte. Ah, boh, io da casa mia non lo sento da qua, tu figurati. Segnale 1, sentivo radio 2, 3, non di più. Invece voi lo sentite forte, forte. Kappa, kappa. Dove sei, a casa di Gavino? No, di fronte, no. Quasi di fronte, no. Un po' più in giù, so. Ah, ma sei in macchina, sei? No, sono a casa, sono a casa di cose, di Antonio, Delta 1. Kappa, kappa. Andra, perché fa una bella modulazione. Bene, mi senti tu? A voglia. Quando scala sono? Ah, 9.5. Kappa, ma c'è un antennino c'ha? Abbiamo 27 L, Mercury. È impossibile. In chissà zona? In chissà zona mi deve arrivare a fondo scala, no? Okay. Che? Passa l'antenna, mica è alta, alta. Tu sei nella Mercury, con la 2 metri d'altezza, neanche. Tu sei in zona monte, così è? Tu Valagio si chiama qua, no? Tu la monte. Ah, allora sei in zona bassa. Eia. E allora già va bene. Paraggio, mi male andare in diana, butti butti. Prima di arrivare alla fine. Kappa, kappa, ci andare, dai. Alla fine, non alla fine. Sì, sì, sbagliato io. Sì, sì, sì, sì. No, va bene, Antone, va bene, va bene. Meglio così. Kappa, kappa. Via, ci ha giusto questa fotografia, va. Che avanti, eh? Sono io, stavo provando, ho allargato un pochettino il cavetto che c'era in terra, perché è lungo e faceva la bobina. Kappa, kappa. Lì vicino, adesso io mi sono ricordato, ci dovrebbe essere, già lo conosce, a coso, si chiama Angelo, si chiama, che vende le bombole. Sicuramente lo conosce. No, Ugo me lo prende, hai fatto io. No, no, Angelo si chiama questo, che è lì vicino, autovaraggio, me lo ricordo bene. Eia. Angelo Kirchi, si conosce Munati. Cava, cava. Cambio, cambio. Cambio. Cappa, cappa, qualche chilometro già è da, c'è da qua, Fare una cazzata, ma... Hai voglia. Voglia, voglia. 9 mi sta arrivando, 9,5 dai. 9,5 si è più detto, quindi già va bene. E dicevo che deve andare. Ah, già va bene, già va bene. Oggi in vacanza? Cazzo di agenzia, ma sembra in oggi, bebe. No, è bassa adesso. Sono passati i fatti gli amici tuoi, cazzo, non se ne può più, non se ne può più, cazzo. Anche i cani ci ha fatto sordi. Ah! Meglio così. Io ascolto metal, ascolto. Qualche volta la tassarista. Che? Talenti, diciamo così. Magari non si muovo. Poi fanno vabbè i balli. E va altre che si gosi. Poi già sarei reso un po' di nuda. Vabbè. No, ho già accorto qualche volta. Ma la possia fatta punire un travagliatore, era salito. Ma poi mi fate, smontate l'impianto da solo, usando chi l'ha fatto. Ti sento un po' disturbato. Forse è troppo... Gappa, gappa. Un basso un pochino. Forse è troppo alto. Ma tu sei lo. Troppo, troppo forte, sto facendo male. Abbassa, abbassa, abbassa. Cazzo, stai strappando di brutto, abbassa, abbassa. C'è una amplificazione troppo alta. Meglio di così. Oh, lo vedi. Sopra c'è una... Ma va meglio... Va meglio così, Antonio. Già non credo, via. Prendi, segnale di 9. Scendente. Senti, no, quanto è che tu sei? Però come è importante? Wow, so che è. Forse stavamo provando. No, che mi sa. Così devo fare una cento che è l'automotive, è un bombone di sera. Leva, l'automotive. Vediamo se qua di fianco al campo, di fronte ai giardini, aspetta, ti mando il corso. Ho capito. Mi pare che andrà a pigliare un bidone, con la moto. Sì, pure che... aspetta che ti sto mandando il video. KK, va a pigliare la moto, anda a pigliare a Miro. Hai sentito? Sì, ho scaricato stamattina, scaricato stamattina. Mi sono fatto a mezza, l'hanno scaricato, è venuto il camion, l'ha scaricato e se n'è andato. Sei tutto strappato, cazzo, quella. Cioè, senza provato di cosa, di Mikey Green. Prova a staccare lo. Ma non è che c'hai la legge staccata? Adesso il solito. Aspetta, ma sono le Mikey Green, guarda. Aspetta un attimo. Io scendo di scooter, quello per l'anziano, il campino scende con la, come si chiama, con la sedia a rotelle, e Giovanna appresso, con la macchina. Ma ero fa cazzate, come che tu con questo scooter ti dai buccia, più di una buccia, ma se fossi bisogno no, sta ciappando il cazzo ridendo sotto al monte. No, ho scoccato le gomme, cazzo la volta due e mezzo l'avevo gonfiata, capito? Ho gonfiato e cammino piano piano, sabato scorso mi sono fatto un bel giro, sono sceso via Napoli, sono salito, ho fatto via Milano, sono andato al circo di Mario Manca, in due mesi, io e mio nipote dietro, seduto e lavorante, quindi immaginati seduti in due persone, in quello scooter lì. Già sgonfiato, già sguidato con lo scooter, non c'è tutto a fare. Non è che vada la maletta, non so così scemo. Fate, passo faccio il ponte nuovo, faccio piano piano, passo dalla parte opposta. Fai bene. Va a venire qua già tutto in discesa. Penso che faccio viaggio con il Pascoli, piano piano e passo davanti alla stessa di vecchio. Faccio viaggio con il tasco, vi continuo dritto, dopodiché giro dove in pratica gira il tram, dove abita la Cristia, giro lì, capito? E poi passo davanti via Bottego. Poi a ritorno faccio il giro inverso. Ma sono, non hanno iniziato ancora a arrostire, mi sa, perlomeno, non mi sembra. Di solito sentiva l'odore pecora, pesce e quant'altro. Adesso non ne stanno facendo ancora. Sabato ci sono le fave, poi c'è il cavallo e non mi ricordo cosa. Lo fanno fuori, lo fanno, capito? Quando è tanto fuori, quindi ci sarà le tende, capito? Perché dentro che è male, col gatto che vecchi. Ma lo so, ma di solito si sente l'odore qua, profumo, fumo, capito? Già lo so, già me lo ricordo. Adesso non hanno iniziato ancora a rustire. L'altro circolo l'hanno chiuso, lo sai? L'altro che c'è più su. Questo che c'è vicino al circolo locale. Pianzi. Vabbè, ma quello è già la seconda volta che l'hanno chiuso, già lo sai che è stato un altro buco male. Capito? Tutto pisciato in terra, poi se ne faceva le bane, ci andava la gente drogata, se ne calzuffavano, sì. Lascia perdere quelli che fanno, che pisciano là dove c'è quella discesa, là, capisci? Ma chi si è abituato da una vita a fare all'Acli? È aperto da una vita. Gli erano chiuso, non so se sono andati i controlli e hanno trovato qualche cosa di strano. Perché è strano, comunque, una vita aperta. Io lo so, ma ci colava gente strana, capito? Gente che facciamo, cosa del genere. Ah, pagissimo. Io sono di facili, però tanto prima o poi ti bisogneggiano. Allora. Infatti il presidente lì, che lo conosco, sta frequentando lì da Cristi adesso. Capita, stai secondo. Cazzo di segnale che c'hai? Fa un passaggio. Ehi, capo. Ehi, vabbè, sei vicino, sì. Franco, noi abbiamo l'antenna adesso sopra il tetto. Oh, ciao a tutti, buonasera. Ciao Franco, buonasera, ben sentito. No, io, siccome sa, adesso siamo per la parrucchia di Antonello e la fagliette mio l'ho messo da una parte adesso e stiamo provando quella di Antonello a vedere come va. L'antenna dovrebbe funzionare bene perché stamattina lui da Sassa dice no, ti sento, no, siamo venuti qua, abbiamo provato tutto, attaccato anche le rose, le stazionali sono bassissime, infatti è la zona che è molto bassa, gli ho detto. Vabbè, per Sassa è tutto diverso, noi qua siamo a tiro di schioppo, sono pochi chilometri, e ne arrivi a Follo, ne arrivi, è una radio bella forte. Il segnale penso che sia buono, la radio lo so che è buona, però il microfono che ho io è molto basso, è un Lafayette LM200, LMS200, diciamo che è molto basso, bisogna cambiare il cazzo o trovare il microfono, mettergli il microfono più amplificato, capito? Break. L'amplificato arriva forte qua, con il microfono, è forte, buono quel microfono. No, va bene, no, mi arrivi a Follo Scala, mi arrivi, non ha più lo smetto. Una Sigma 2, questa antenna 5/8. E vabbè, avevamo visto il 5/8, però della Sigma, è marcata Sigma. Sì, è un Sirio, boh, non te lo so dire. È arrivata quando è l'altro giorno, è arrivata e ieri sera l'avevamo tutta quanta per bene, e stamattina poi alle 7:30 del mattino ero sul tetto che stavo piazzando una tenda, però vedo che siamo anche dopo, c'è troppo caldo. Capo, mi senti? No, c'è un palo di un metro, penso che sia il palo, e sono io, la volevo mettere da un'altra parte e lì mi viene molto male perché c'è il tetto a spioventa, con la scala mi fa male a lavorare, capito? Se no sei andata mia sorella, mi sarei preso un palo che l'ho lasciato da lì, che è 4 metri più, un altro ne ho qua in veranda, che sono altre, penso 3 metri e mezzo, da l'avrei montata lì e sarebbe stata più in alto l'antenna, capito? Così che vabbè, già riesce bene così lo stesso, vediamo un pochettino, poi se trovo qualcheduno di fuori e se mi sentono, se tutto funziona bene. Ma penso di sì, perché qua arrivi bene, però tira lassù, non lo metto, metti, tira lassù almeno un paio di metri più in alto di quelli della TV, un paio di metri più in alto, vedrai che non dai problemi né a te né a nessuno. Ma problemi alla televisione non è da far niente, perché ho già provato a casa io, vedere se facevo TVI, no, però funziona tutto alla perfezione, non fa nessuna interferenza, neanche abbiamo provato con una scarpetta pure a vedere un pochettino se faceva interferenza e nessuna interferenza. Qui la calata c'ho un bel po' di cavo RG8, solo che lo devo cambiare perché scende in facciata e devo fare un buco anche per entrare le 48. Fermare bene la coda, perché così adesso siamo sul tavolo che stiamo provando e tutto quanto, capito? Come qua, Breco! Come tutto, va bene. Aspetta, a parte che noi siamo molto vicini, però dovresti arrivare anche a Sassari discretamente. Sì, che arriva, arriva, voglia che arriva. Con la scarpetta. No, 9.5 a Sassari arrivi, da secondo la zona dove chiami, capito? Alla Croce arrivi 9.5. Va bene, va bene, dai. In confronto che ce l'hai basso già va bene. È una... hai una bella modulazione comunque, anche se il microfono probabilmente dipende anche perché siamo vicini, però diciamo che se non lo dici sembra amplificato dalla mia parte. Sì, è un microfono, cioè adesso stiamo usando l'apparecchiatura di Antonello, io te l'ho detto, l'ho messo da una parte, cioè il microfono preamplificato della ZG, quello che c'è Antonello qua inserito in questo baracchino, capito? Vabbè, poi piano piano metteremo qualche altro microfono almeno, perché io avevo un SBE da tavolo e poi l'ho venduto a un siciliano che l'ho venduto e gli ho mandato in Sicilia. Infatti era spaventato, dice ma non è che mi frega, io fa no, tranquillo, gli ho detto già ti arrivo il microfono. Poi gli ho fatto vedere la ricevuta come spedizione, tutto quanto alle porte gli ho fatto e poi gli ha contento del microfono. Va bene, contento. Attenzione 10, mi chiombiate, gappa. Gappa. Sì. No, già va bene, dai. Niente, li metti lì ti cerchi un bello MP4. Niente. E vedrai che va bene. Ma mi è sembrato di sentire una modulazione conosciuta. Antonio, tu sei? Sì, sono io, sto chiamando una mezz'ora, se no attacco lineare. Non fai niente qua, non fai niente, anche se ne attacchi tre di lineare. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera, buonasera. Capo, siamo vicini, non penso che ci copri tutti e due, perché lui mi arriva a fondo a scala, io non lo so come mi arrivo, però penso che gli arrivo a fondo. Sì, quasi uguale a lui, di segnale. Capo, va bene. Antonio, io vi devo lasciare che devo mollare, che stavo facendo cose, sono entrato perché mi avevano mandato un messaggio Antonello. Ce le ascoltiamo allora, dai, se coincide, qualche giorno già ci sentiamo, qualche sera. Ciao a tutti e due, Antonio e Antonello Pompugno, ce le riascoltiamo. Vi devo lasciare perché c'ho gente anche che sta facendo cosa. Riprendi Antonello e fai girare. Ok Franco, ciao, buona serata, buon proseguimento. E anche noi tra non molto dobbiamo chiudere tutto, perché ce lo portare su Antonello, ok? Ciao, buon proseguimento. Antonio, io ti devo salutare perché noi stiamo chiudendo. Stiamo andando facendo tutto il stand by subito. Ok, ok, con questo si è una bomba, sì, arrivi forte qua, Cioè, 95 Radio 5, a bomba. Meglio così, grazie del controllo. Vabbè, sto utilizzando l'apparecchio di Antonello, sto utilizzando, non sto utilizzando il mio, Il mio da una parte, se c'è quello di Antonello attaccato, poi subito spegniamo tutto e ci devo portare su Antonello a Sassari. Ok Antonio, ciao, buon proseguimento, alla prossima. Ok, ciao. Ciao, ciao, ciao, ci sentiamo, rappa, ciao, ciao. Ciao a tutti. Ehi, hey, ciao, ciao. CQ10, CQ10, chiamata, attenzione canale 10, nessuno in ascolto.